ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Buona domenica, con chi prendiamo il caffè questa mattina? Lo prendiamo con Enrico Letta che, come sapete, dopo essere stato Presidente del Consiglio è da anni il direttore della Paris School of International Affairs a Parigi per la prestigiosa Sciences Po e è anche il Presidente dell'Istituto Jacques Delors. Buona domenica Enrico Letta. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco, perché c'è lei questa domenica? Perché il confronto tra Italia e Francia è ai tempi della recrudescenza del Covid quanto mai attuale e io però vorrei partire da un mondo preciso che è quello della scuola. Intanto perché questo pomeriggio a Parigi si svolgerà una grande manifestazione non soltanto per commemorare e onorare il professor Paty che è stato il docente ucciso venerdì sera, sgozzato purtroppo, questo è il termine crudo che bisogna usare, da un giovane terrorista ceceno, ma la grande manifestazione che porterà in piazza tanti parigini, tanti insegnanti in arrivo anche da altre città francesi, è per ribadire il tema della laicità dell'insegnamento, da un lato, e dall'altro perché anche in Francia si parla molto di come garantire il diritto a stare a scuola ai ragazzi con una cifra di contagi che è piuttosto severa anche in Francia. Macron ha detto non si discute, questo non è negoziabile, i ragazzi a scuola ci devono stare, abbiamo già perso tanti mesi. Lei cosa pensa invece delle polemiche che ci sono in Italia? De Luca, il presidente della Campania, che le scuole le vuole chiudere. Ma intanto ovviamente in Francia la situazione in queste ore è drammatica per l'impatto che anche su tutto il mondo della scuola ha avuto quella vicenda veramente incredibile, l'orrore, il precipizio dell'orrore che si è visto in questo piccolo comune di Conflans-Sainte-Honorine e di quel professore, di quel povero professore con quello che è successo. Credo che sia veramente drammatico far ripiombare nella situazione di alcuni anni fa. Io ho cominciato questo lavoro in università a Parigi esattamente qualche giorno prima del Bataclan, ho memoria ancora del dramma di quelle ore degli studenti completamente, anche tanti studenti italiani che studiano lì, completamente persi, attoniti, tutti eravamo persi, attoniti, è una situazione che purtroppo si ricrea, segno che c'è un problema e questo problema è drammaticamente aperto. Ed è evidente che in questo momento la scuola è colpita da questa vicenda e questa si aggiunge alle altre cose a cui faceva riferimento lei e in particolare naturalmente alla questione del Covid. Ora, io credo che sia prioritario tenere le scuole aperte, lo dico con grande franchezza. È ovvio che la salute viene prima di tutto, ma nel momento nel quale si deve fare un elenco e si deve mettere in priorità, in fondo la politica questo è fare delle priorità, io credo che evitare che i nostri ragazzi, che i giovani oggi abbiano, si trovino in una situazione che ripeta quello che si è visto durante la primavera è molto importante, per un motivo molto semplice. Per tanti di noi alla nostra età ci si trova a poter anche dire vabbè, un anno in fondo vale l'altro. Posso anche immaginare che ma per un ragazzo di 16 anni, di 17 anni, di 18 anni, un anno non vale l'altro, quell'anno lì è irripetibile nella sua vita e soprattutto la didattica a distanza si è visto che funziona quando le cose funzionano, ma apre tante disuguaglianze e io credo quindi che se c'è da fare un elenco di priorità è quella, lo dico perché e termino su questo, perché i giovani già sono colpiti da altri grandissimi problemi da questa vicenda, non pensiamo che soltanto altre categorie generazionali o professionali sono sotto attacco, è vero che è più letale il virus per le persone più anziane ed è verissimo. questo, ma non dimentichiamoci il fatto che dal punto di vista del colpo sulla formazione, sull'economia anche, oggi facciamo di tutto, come è naturale, per proteggere il lavoro che c'è, ma i lavori nuovi non si creano più in questa nuova situazione, i lavori nuovi sono quelli per i giovani. Certo, è tutto congelato e poi c'è il timore che se si chiudesse di nuovo per un certo periodo la scuola, in tanti, per esempio proprio nelle aree più disagiate, non, a scuola non ci torneranno, ed è la preoccupazione che si è espressa in Campania. Le chiedo, da buon conoscitore di tutti i governanti, a cominciare da Macron, ma anche la Merkel, eccetera, e da presidente dell'Istituto Jacques Delors, ma lei che idea si è fatta sui fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa? Perché per ora il Recovery Fund è un annuncio, ma non se ne vedono le... è un annuncio che fa bene, tiene su anche lo spirito, ma secondo lei a giugno arriverà un piccolo anticipo e sarà troppo tardi? Voglio citare le parole di un diplomatico tedesco, Michael Klaus, che prima del vertice dei 27, che ha visto presente anche il nostro presidente del Consiglio Conte, ha detto: in questo caso il tempo è essenziale. Ma dunque, io chiamo questa operazione europea col nome che gli si è dato a livello europeo, cioè Next Generation, cioè la nuova generazione. Secondo me è importante chiamarla così perché dà l'idea di una di un grande progetto sul futuro, innanzitutto, cioè come ridare investimenti, far ripartire l'Europa e quindi anche l'Italia. Dentro questa operazione c'è il Recovery Fund, credo di poter dire che con grande appunto nettezza che non è un annuncio, è un fatto già deciso dal Consiglio europeo. Sono due gli organismi istituzionali che devono decidere su questo. La proposta è stata fatta dalla Commissione europea, il Consiglio europeo il 21 luglio l'ha approvata cambiandola con alcuni cambiamenti, e adesso in questi giorni, in queste ore, la settimana prossima ci sarà il passaggio al Parlamento europeo che deve dare l'approvazione finale. Una volta fatto quello, poi ci sono i progetti nazionali, perché questa operazione, non dimentichiamoci, è un'operazione ambiziosa e complessa, ambiziosa come dimensioni, mai fatta un'operazione da 750 miliardi di euro veri, non con l'effetto leva, veri. E in secondo luogo è un'operazione complessa perché sono soldi nuovi, cioè non sono soldi europei che già c'erano, soldi che so io tedeschi che vanno all'Italia, non sarebbe stata una buona scelta così. Sono tutti i paesi europei che vanno sui mercati a finanziarsi con fondi nuovi, che quindi sono europei, non sono tedeschi o olandesi o spagnoli, sono di tutti gli europei e vengono poi redistribuiti. Per fare questo c'è bisogno di una operatività che, da quello che dicono, sarà a metà dell'anno prossimo, nella seconda metà dell'anno prossimo. Quindi, per non sfuggire alla sua domanda, io penso che mai come in questo momento il ponte tra adesso e l'arrivo dei primi fondi del Recovery Fund e del Next Generation EU, che sarà appunto nella seconda metà dell'anno prossimo, debba essere l'utilizzo del MES. Lo dico molto francamente, non capisco perché non si vada in questa direzione. Però in Francia non lo prendono. Enrico Letta, in Francia non lo prendono. Il fatto che altri non lo prendono è legato alla nostra situazione del debito pubblico nostro, che è il più alto di tutti, fa sì che la nostra capacità di andare a prendere soldi nuovi in prestito è molto diversa da quella degli altri paesi europei, di tutti gli altri paesi europei. Noi abbiamo la possibilità, quindi, quei soldi del MES che ci sono lì, non c'è bisogno di costruirli con nuove operazioni come si sta facendo su Next Generation, che quindi necessita il tempo per fare questa tassazione sull'high tech, per costruire il bond che la Commissione deve poi mettere sui mercati. Questo è Next Generation, quindi nuove operazioni che vanno costruite. Il MES ha in cassaforte all'incirca 400 miliardi di euro che sono lì, si è deciso che devono essere dati senza condizionalità per aiutare i paesi, soprattutto sulla sanità. Si potrebbero fare tantissime cose in Italia, penso per esempio 1000 centri di telemedicina diagnostica nei 1000 comuni montani, remoti del nostro paese, per aiutare la popolazione anziana che è lì, essere in grado di far sì che il digitale tocchi attraverso la telemedicina tutto il nostro paese. Piccolo esempio di cosa si potrebbe fare di positivo. Le faccio due domande molto rapide mentre il tempo finisce. Che effetto le fa guardare da fuori in un contesto appunto che sta diventando preoccupante, no, per il Covid? Ecco, il fatto che all'interno della maggioranza di governo ci siano dei micro conflitti perché prendendo per esempio a pretesto la legge sul voto ai diciottenni per il Senato, Italia Viva ha cambiato idea. 9 giorni prima era a favore, poi invece ha cambiato idea ed è contro. Pare perché ci sono pressioni su Conte per fare il rimpasto. Insomma, guardandolo da fuori, lei che c'è stato dentro lì, dentro il meccanismo, che effetto le fa? Guardi, non mi trascinerà in polemiche con Renzi, ho superato questa fase da tempo e non voglio assolutamente dare nessun adito a nessuna forma di... dico soltanto questo governo, questa maggioranza si è trovata di fronte in primavera la più grande prova e la più difficile prova. Divisioni ci sono in tutti i governi, in tutti i paesi europei, sono divisioni complesse perché le decisioni da prendere sono complesse, basta vedere in Germania cosa sta succedendo tra la Merkel e i Länder, la Merkel che è stata molto dura in queste ore perché le divisioni ci sono anche lì, le divisioni ci sono dovunque. Io ho fiducia in quello che Conte sta facendo, credo che abbia fatto fino adesso bene e la maggioranza e il governo abbiano fatto quello che dovevano fare. Adesso credo che ci sia bisogno di unità, veramente di unità delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, perché è molto importante, ognuno fa la sua parte, ma che si vada alle scelte che devono essere fatte in queste ore con il senso, insomma, mi sento di dirlo, non ci sono elezioni fra qualche mese, fra qualche settimana, le elezioni prossime sono lontanissime. Sì. Credo che se ogni forza politica si occupasse in questo momento veramente di fare la scelta e le scelte che riescono a far sì che i cittadini siano in grado di sapere, certo, cosa fare e di farlo bene, sarebbe la cosa migliore. Una cosa flash, le hanno chiesto di candidarsi a sindaco di Roma e lei ha detto no, Roma è comunque la città dove vive la sua famiglia. Come vede Calenda sindaco di Roma? Ma mi sembra un'opzione, sicuramente un'opzione, una buona opzione, dopodiché saranno i partiti, sarà il PD a fare la sua scelta. Io ho fiducia in Zingaretti. Zingaretti sta facendo benissimo come presidente della regione Lazio. Io vorrei soltanto che ci ricordassimo cos'era la sanità del Lazio un tempo e cos'è oggi. È un sistema molto più efficiente di quello di tante altre regioni. Sta facendo bene come leader del PD. Quindi mi faccio dire che Zingaretti farà le scelte che saranno quelle migliori, secondo me. Grazie, grazie Enrico Letta. Chiudiamo con un ricordo per Iole Santelli, la governatrice scomparsa che lei ha conosciuto bene negli anni in cui ha fatto politica a Roma. Buona domenica e buon caffè a Enrico Letta. Grazie.